Costoso uguale lussuoso? Non più. Oggi i nuovi cult sono low cost. Abiti, accessori, oggetti di design, prezzo medio 30 euro. L'esclusività del nuovo lusso non sta nel prezzo sul cartellino, ma nel fatto di saperlo riconoscere come prodotto di tendenza e sapere dove e quando comprarlo. Per il sociologo dei consumi Gianpaolo Fabris è una rivoluzione culturale. Oggi il consumatore sta prendendo consapevolezza che anche a livelli medio, medio-bassi è possibile trovare dei prodotti di eccellente qualità. La parola d'ordine per il consumatore non è spendere poco, ma spendere bene e scoprire tanti piccoli tesoro, come appunto alcuni di questi prodotti cult, a livelli di prezzo che prima erano inimmaginabili. Dall'orologio Too Late, importato dal MoMA di New York, prezzo 20 euro, 10.000 pezzi venduti in Italia nei primi 10 giorni di distribuzione, all'ormai celebre I'm Not a Plastic Bag, borsa di cotone creata per la catena inglese di supermercati Sainsbury. Amata dalle star, prezzo 12 euro per accaparrarsi le ultime disponibili, le clienti dello store di culto milanese 10 Corso Como sono arrivate alle mani. E mentre interveniva la polizia, le quotazioni su eBay superavano i 150 euro. Ressa e spintoni lo scorso autunno anche nei negozi della catena svedese H&M per l'arrivo in tutta Europa della collezione firmata Roberto Cavalli. Dopo quelle andate a ruba di Karl Lagerfeld, Victor & Rolf, Madonna, Kylie Minogue e da oggi Marimekko, la griff finlandese amata da Jackie Kennedy. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore.